la mia completa solidarietà con Vauro, che tra l'altro è uno dei promotori anche di Pandora. E devo dire, dal punto di vista di un giornalista estero, ciò che ha detto, ciò che ha scritto e disegnato Vauro è l'assoluta normalità di ciò che è il diritto di cronaca. Sono dispiaciuto che ormai la facciano solo i comici e i disegnatori e non più i giornalisti. Fin dalla sua prima vignetta, nella quale lui ricordava la infelice battuta di Silvio Berlusconi, rilasciata anche la nostra rete RTL NTV, nella quale Berlusconi voleva evidentemente tirare sul morale, dicendo: dai, vedetelo come un weekend di campeggio, però chi aveva perso appena mezz'ora fa i madre, padre o i figli, questa battuta doveva sembrare estremamente infelice. Allora, ironizzare su questa verve del nostro Presidente del Consiglio, che si è nuovamente confermato il primo gaffeur della nazione, mi sembra anche sacrosanto e mi sembra doveroso addirittura. Peccato che tutte le televisioni italiane hanno voluto tacere queste gaffe continue, e poi tutte le altre vignette di Vauro rispetto alla ricostruzione, rispetto alla non sismicità degli edifici pubblici, che sono stati i primi a crollare, mi sembrano un dovere assoluto, e perciò la censura che la RAI vuole esprimere nei suoi confronti è assolutamente inaccettabile per una democrazia normale, standard, però purtroppo, ahimè, dobbiamo constatare che l'Italia si sta allontanando sempre di più dal mediano delle democrazie occidentali.